Radio 24 Reportage. Il Giro d'Italia, 50 anni dopo, ricorda la strage del Vajont, di Dario Ceccarelli. Mercoledì 15 maggio, nell'undicesima tappa, la Tarvisio-Erto di 182 km, il Giro d'Italia ha ricordato il cinquantesimo della tragedia del Vajont. Era il 9 ottobre 1963 e i morti furono quasi 2000, travolti da un'immensa ondata d'acqua che, dopo aver scavalcato la diga del Vajont, precipita a valle, travolgendo Lungarone e diversi altri paesi. Una tragedia annunciata, perché da anni si sapeva che sopra l'invaso il Monte Toc stava lentamente franando. E quella sera, alle 22.45, una parte della montagna va giù, nel lago, alzando un'onda gigantesca che porta a morte e distruzione in pochi istanti. Lo scrittore Mauro Corona vive ad Erto, uno dei paesi colpiti ma non completamente distrutti. Il rumore non c'è, mi dispiace morire senza che l'umanità abbia sentito quel rumore. Non, a parte poi la mancanza di luci, l'indomani, i morti, c'era una donna impigliata su un albero, mi ricordo che galleggiava, ma il rumore, lei non so se ha mai provato dove scaricano un camion di ghiaia, sì. No? Nel punto culminante dello scarico lei sente un fracasso infernale, bene, ci metta 300 milioni di metri cubi di ghiaia e mi riproduca il rumore. Nonostante gli allarmi si va avanti come se nulla fosse. Alle 8 di sera sono tutti a casa a vedere la partita di Coppa dei Campioni Real Madrid-Rangers-Glasgow. Sentiamo il ricordo di un sopravvissuto che all'epoca aveva 13 anni, anche lui di Erto. Ero in casa, niente, la mia casa non è stata distrutta, non è stata nemmeno lambita dall'acqua, però ho ben sentito le voci degli altri che chiamavano aiuto. Della corrente elettrica che è mancata, e tutto al buio, non si sapeva dove venivano le voci, si cercava, uno chiamava una corda, l'altro chiamava un bastone per tirarsi fuori dal fango, e molti purtroppo non si sentiva più la voce e sono morti così. Ricordo molto bene, come un gran vento e come un terremoto, e non abbiamo visto niente, abbiamo solo sentito. Perché era buio, era notte, anche se il cielo era stellato. La sua casa è stata presa? No, la mia casa fortunatamente come altre, come gran parte del paese, è stato preservato, perché a valle del paese c'è un costone, l'acqua ha battuto contro il costone, è stata deviata, è andata dalla parte sinistra del lago e ha lambito tutte le frazioni e praticamente là si sono salvati pochissimi. Pochi si sono salvati, solo a Lungarone si contano quasi 1500 vittime, circa 160 a Erto e Casso, 109 a Castellavazzo. C'è rabbia perché i sopravvissuti, che vagano sopra quel mare di fango, sanno che per anni si è nascosta la verità. La corrispondente dell'Unità, Tina Merlin, ha scritto decine di articoli denunciando le responsabilità dell'azienda elettrica Sade. Sentiamola. Io provai una volta ad aiutare questa gente, ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena, anzi sentenziarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva, ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi. Chi li ha uccisi? Già, non solo la Sade del Conte Cini, ma anche i periti che hanno taciuto per non disturbare i potentati economici dell'elettricità. Franco Polo, guida del Parco Dolomiti Friulano, ci accompagna a visitare la diga. Alta, maestosa, sembra indistruttibile. Da qui, oltre la gola, si vede Lungarone. È vicinissima. Franco Polo non ha dubbi. Dico solo quello che ha detto il magistrato Fabbri dopo che hanno fatto le prove a Lione in Francia con un modellino costruito a Lione, perché nessuna università italiana si era disposto. Non era solo prevedibile, era inevitabile. E nonostante questo l'illusione di poter gestire è la non volontà di fare una brutta figura per i contratti che si avevano, e poi anche la questione degli affari, non hanno fatto niente. La realtà è che in realtà l'uomo è stato estromesso da qui, no? Perché se vediamo adesso la frana ha ripreso il suo l'aspetto naturale di un tempo, in realtà è questo. Non è solo una frana che ha creato un disastro, ma l'ha creata nella struttura umana della valle, no? Della valle, di questi luoghi, diciamo. Qui la vita è tornata o è rimasta sempre quella impronta di quella giornata? No, è un po' cambiata. È cambiata nel senso che gran parte della gente è andata via, quindi è morta un po' l'agricoltura di cui il paese viveva. Quelli che sono rimasti grazie anche un po' alle occhialerie, a questo nuovo crearsi di nuovo lavoro verso Longarone, ha un po' tenuto la gente che è rimasta, è riuscita a viverci. Dicono che per molti di voi ricordare è difficile. Sì, difatti io il giorno del 9 ottobre sparirei dalla circolazione, andrei lontano per non sentir parlare, per non ricordare, per cercare di dimenticare, anche se è impossibile. Lei ha lavorato qui, che vita ha fatto dopo? Dopo io fortunatamente sono entrata con la società elettrica, voi anche un po' per ciò che era successo, e così ho sempre vissuto, ho fatto il guardiano sulla riga di Barcis e ho passato tutta la mia vita lì. Quindi il suo mestiere era quello di elettricista? Sì, io ero un elettricista che poi non ho fatto direttamente l'elettricista, ma l'operatore di opere idrauliche. Quanti anni aveva quando è avvenuto quel 9 ottobre? 13 anni, sì. Beh, sì, ma ricordo, come dicevo, tutto bene, poi ce l'ho ancora nelle orecchie e non lo dimenticherò mai. Sentiamo ancora Mauro Corona. Qui è tornata la vegetazione in 50 anni, ma era giallo come un paesaggio lunare. Impressione, io spero si siano conservate le foto di quel giallo, tutto disossato. Poi sai, la natura pian pianino guarisce, le ferite della terra, sono tornati i boschi, il vaion torna a correre, ma è stato sconvolgimento. Poi il danno morale della gente, distrutto un paese, gli usi, costumi, tradizioni, la cultura, questo paese di agricoltori e artigiani, c'è più nulla. Non c'è più un ertano, c'è qualche bambino che nasce a Erto, ma non ertano. Ma la ruota comunque riprende a girare. Anche nella vecchia Erto, che si era spopolata, la gente sta tornando nelle case. Voi perché molte sono state vendute a gente da fuori e le stanno risistemando? Altri che sono ritornati, anche i figli dei figli, e le stanno ristrutturando. È un po' difficile perché... Il problema qua è che ci sono tanti proprietari di un solo immobile e quindi fanno un po' fatica magari a mettersi d'accordo, perché uno è più contento di cedere, l'altro vorrebbe mettere a posto un po', ma comunque sta riprendendo abbastanza bene. Si va avanti, ma molto lentamente, e il divario tra le vecchie e le nuove generazioni aumenta. L'unica cosa rimasta è i non servizi. Noi siamo rimasti come 50 anni fa, non c'è un tabacchino, una macelleria, un frutta e verdura, un giornalaio, non c'è niente, c'è l'alimentare, sì. C'è un pullman che porta i nostri bambini la mattina alle 6:30 a Longarone. Lì prendono un treno, anche d'inverno, e vanno a Belluno a studiare. La sera tornano in treno, ripigliano il pullman. Mi dica come arrivano a casa sti bambini. Bisogna fare scuole dove non ce ne sono, anche per un solo allievo. Ed è tutto per questo speciale. Ancora un saluto da Dario Ceccarelli. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.